Smart City, la città intelligente. Un saluto da Maurizio Melis. Continuiamo a parlare di Smart City e design questa sera sull'onda del Salone del Mobile che si è appena concluso qui a Milano. Dopo il cubo fotovoltaico e la ragnatela solare di ieri, questa sera apriamo con un'idea che possiamo sicuramente definire originale per cambiare faccia agli edifici, diciamo così, più bruttini. La scovata Federico Pedrocchi al Salone del Mobile. Sentiamo. Ecco, qui sentirete un sacco d'acqua che viene giù. Fianco a me c'è Cristian Benini, che però porto fuori, usciamo di qua. Cristian Benini di? Wall & Deco. Ecco, mettiamoci in un posto meno rumoroso di questa stanza che voi avete attrezzato simulando una bella pioggia che viene giù su una parete, esatto, di un edificio sul quale ci sono le vostre tappezzerie. Ho una dozza. Ho una dozza, perché il prodotto è pensato o in esterno, quindi in facciata, oppure in dozza. Però a me interessa di più qui vedere la soluzione per le facciate esterne, perché effettivamente in tante nostre città ci sono degli edifici bruttissimi. Con queste tappezzerie si potrebbe fare... La sfida più grande è quella di andare a migliorare il panorama urbano. Poi bisogna vedere, in città i permessi non ce lo permettono. Cosa vuol dire? Non vi lasciano applicare le tappezzerie? Si lasciano decorare gli edifici a discrezione dell'architetto. Mi spieghi bene cosa vuol dire che non ve lo lasciano fare allora? Significa che all'interno dei centri storici il piano colore è molto definito e non prevede un intervento di questo tipo. Okay. Rimane naturalmente un intervento estremamente interessante in tutto il residenziale e dove il piano colore non è così definito. Senta, ma la domanda però deve per forza aspettarsela. Questa roba qui cosa dura? 2 anni? 1 anno e poi bisogna rimettere a posto tutto, ritappezzare? No, il materiale ha una durata attorno ai 6-7 anni complessivamente. Comunque, quando finisce la durata del materiale, che non è improvvisa, non si prevede di ritappezzare tutto, si può anche ricolorare, riverniciare. Quindi rimane comunque un elemento strutturale dell'edificio, perché ha un potere strutturale. Con i costi come siamo messi? E il costo è un costo, è un materiale che va al pubblico a un costo di 110 euro al metro quadro. Rispetto al costo di ripittura? Ha un costo decisamente più elevato, però il suo competitor può essere una facciata ventilata, che ha un costo molto superiore, quindi quando entriamo nel settore delle facciate estetiche. Se dalle facciate degli edifici ci spostiamo all'interno, troviamo tantissime cucine. Al Salone del Mobile è stato possibile gettare uno sguardo sul futuro di questi luoghi così importanti e anche un po' simbolici della nostra vita. Le direttrici su cui un po' tutti i principali produttori di elettrodomestici stanno puntando, come si è potuto osservare, sono due. Connettività da un lato, per poter controllare, interagire a distanza con gli elettrodomestici, e risparmio energetico dall'altro. Per parlarcene, Irene Privitera ha raccolto la voce di Marco Signa, Energy Strategy Manager di Whirlpool. Sentite. Le reti elettriche intelligenti in un prossimo futuro permetteranno di avere più fasce orarie, di avere costi differenziati dell'energia durante il giorno e quindi anche una soluzione per il consumatore per poter beneficiare dei prezzi migliori durante il giorno e quindi poter far andare i suoi prodotti quando più gli conviene, piuttosto che farli andare solamente negli orari fissi, che sono oggi la bioraria, ad esempio, ti costringe a farli andare la sera se vuoi risparmiare qualche cosa. E in un prossimo futuro, invece, con una maggiore flessibilità, si potrà fare in modo di avere, ad esempio, la lavastoviglie che si prepara prima di andare al lavoro, si chiede di avere tutto pronto per la sera quando uno torna dal lavoro, poi il sistema farà lui partire il prodotto nel momento in cui c'è la tariffa migliore, quindi minimizzare il costo per ottenere lo stesso risultato. Quindi lavastoviglie e parenti vari. Quindi quali lavastoviglie sono? Lavatrice, forno. La lavatrice, ad esempio, come per la lavastoviglie, può essere programmata in modo da averla pronta per una certa ora. Si possono avere suggerimenti e consigli anche su come ridurre il consumo per il ciclo. Se ad esempio io suggerisco di usare il 60 gradi, la macchina mi può dire: per questo tipo di tessuto puoi utilizzare anche una temperatura più bassa e quindi risparmiare tot soldi. E se magari posticipi di un'ora la partenza, potresti avere un ulteriore risparmio perché passa la tariffa più bassa. Quindi tutto un modo molto più semplice di interagire col prodotto tramite un'interfaccia che l'utente ha già, che il suo smartphone, che il suo tablet o con un altro dispositivo mobile, ho la gestione completa in qualunque momento di tutto quello che c'è in casa. Bene, ora immaginate un grande schermo piatto, uno schermo touch per la precisione, tipo un televisore da 40 o 50 pollici, però disteso orizzontalmente. Solo che oltre a essere uno schermo è anche un piano di cottura a induzione, insomma di quelli che scaldano direttamente e soltanto la pentola, ed è pure una bilancia. Sì, insomma, voi ci mettete sopra una pentola e lui si illumina lì dove l'avete appoggiata. Vi dice quanta roba ci mettete dentro e se volete ve la cuoce. Ce ne parla Davide Barbirato di Gaggenau, intervistato sempre da Irene Privitera. Ecco qua. Questo tavolo è in grado di riconoscere le forme, quindi se ci posizioniamo una pentola la riconosce e ci permette di visualizzare il livello di potenza e il tempo di cottura desiderato, e la possiamo spostare lungo tutta la superficie di cottura, quindi dà la massima flessibilità. Inoltre riconosce anche gli ingredienti tramite un QR code presente sotto gli ingredienti e li pesa tramite una bilancia posta sotto la superficie del piano cottura. Se noi apriamo il ricettario, un ricettario che abbiamo preparato appositamente per... Quindi spieghiamo un po', questo tavolo è un po' touch. Sì, è un tavolo... tocco l'icona con il cappello del cuoco, esatto, e mi sbuca sul tavolo, che diventa uno schermo, il mio ricettario. Il mio adesso ricettario... c'è il risotto alle erbe. Con erbe fresche e gamberetti. E lì si vede una freccia che connette direttamente l'ingrediente alla ricetta. Eccola che risponde, proprio qua. Beh, insomma, dopo il televisore che fa anche il caffè, e mai avrei pensato che sarebbe accaduto davvero nella realtà, domani parleremo di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Invaderanno le città e in qualche caso potrebbero essere davvero brutte. Che fare? Ne parliamo domani, come sempre, a Smart City, la città intelligente.